Sì, che starebbe per? Vabbè, ABC. ABC. La novità, la senti? ABC. È una grande novità, quella che noi siamo stati fatti professori, insomma, qui in tempo di crisi hanno deciso di ottimizzare i costi. Purtroppo bisogna lavorare, bisogna insegnare. Invece di stare qui a fare un po' i cretini, come abbiamo fatto fino adesso, a intrattenere i bambini. Continuiamo a fare i cretini, ma insegnando. Insegnando cosa? Insegnando cosa? Insegnando una parola al giorno. Quindi praticamente siamo professori, non dico di grammatica, però potremmo dire di lessico, lessico italiano. Sì, insomma, già la parola lessico è un po' difficile. Vabbè, comunque, per scegliere la parola scegliamo la lettera ABC con cui la parola comincia. E per farlo abbiamo questa, guarda che bella, Drago, la fantastica ruotona della letterona. Eh sì, questo è veramente il nostro orgoglio. Adesso tu l'abbiamo la fai comprata girare, tra l'altro di seconda mano alla fiera degli Obey Obey, è stata trovata in ottimo stato e ora la facciamo. Adesso la facciamo girare e si fermerà su una lettera e suggerirà la parola che noi andremo a illustrare in questo nuovo, diciamo, abecedario sonoro. Vai, fai girare. Allora, io? Vai. Come? Albero. Ma tra l'altro la A, combinazione, proprio la prima lettera dell'alfabeto, la prima volta. Sì, ma poi che albero. Albero, lo sanno tutti cos'è un albero. Non possiamo spiegare cos'è un poi albero. Poi alla radio non è che insomma, l'albero suona. Allora, se facciamo c'è il vento A come tra le frasche. A come antroposofia, che non so nemmeno io che cosa sia, però ma magari impariamo insieme. Ma se partissimo dall'ABC, appunto, cioè A come abecedario. Ma che abecedario? Una parola che nessuno sa. Abecedario, con una B. Due B. Abecedario, perché in toscano i toscani loro usano il raddoppiamento fonosintattico della consonante dopo la vocale, tu lo sai, vero? Quindi è abecedario. Però l'abecedario, nessuno sa che cos'è, è una parola del secolo scorso, non serve a niente al giorno d'oggi. Ma stai scherzando? Ma l'abecedario serve anche per vendere i laminati, ad esempio. Vorrei un abecedario per imparare a vendere i laminati, amico abecedario. Ce lo dice Elio. Compagno di avventure, non lo dici. Fa chiudo così. Vabbè. Vedi? L'abecedario, vendi laminati. Però, l'abecedario, fai una trasmissione radiofonica. Ma sull'abecedario non possiamo allargare un po' il campo e parlare del dizionario, non so, dizionario filosofico di Voltaire, oppure dell'enciclopedia, dai, la famosa enciclopedia, l'enciclopedia, quella francese dell'illuminismo, di Diderot. Tu devi spiegare. Allora, K adesso. A ferro, ferro, pino, pino, ZZ. Cosa sono a ferro? L'enciclopedia, no, divisa in tre volumi. A ferro, ferro, pino, pino, ZZ. Negli anni 50 bastavano tre volumi. L'enciclopedia, quella dell'Enciclopédie, non so quanti volumi aveva, c'erano delle definizioni che avevano però 80 pagine scritte noi dai. Noi facciamo una trasmissione dall'asilo che si chiama Chiedo Asilo ABC. Dobbiamo rimanere all'abecedario. L'abecedario. Quindi la parola, la lettera e un'immagine che la illustri. Ma quale immagine? Siamo alla radio, appunto, si fa? Dai, un abecedario deve essere un abecedario sonoro, diciamo musicale. Arrivati. Cioè, troviamo anche delle canzoni che ci raccontino la parola scelta. Quindi sono canzoni che ci illustrano un mondo. Alla fine della serie di puntate, di lezioni, di Chiedo Asilo ABC, arriveremo a una specie di definizione del mondo intero cantato, forza di canzone, come sul sublime. Però partiamo da un ABC. Ce ne sono tante di canzoni che parlano dell'ABC. Scegliamone una, insomma, non della bici, dell'ABC, dell'abecedario. Allora, abbiamo sentito Elio, adesso non so, un abecedario un po' più fricchettone, un po' più dove mi porti? Meno intellettuale. Andiamo in Giamaica, non so. Addirittura. Vedi, Giamaica, si ridacchia. Sì, ma in Giamaica non si impara l'alfabeto. Ma che ne sai? Ma non vanno a scuola a Kingston. Ma certo che ci vanno. Ghettori. Ma certo che ci vanno. Si sparano. Ma che si spara? Sta zitto. Senti qua. Allegria, fratellanza, pace, sole. Soprattutto. Pace. Ma non c'è le bande criminali, guarda, la pace. Ma smettila. Bend down low. mettiti comodo, mettiti giù. Let me tell you what I know. Adesso ti spiego quello che so. Sentiamo cosa ha a spiegare Ziggy Marley. Ma non tu, Ziggy Marley. A is for Africa, B is for brother, C is for caring, D is for dada, E is for everyone, F is for forever, G is for my guitar, H is for here we go, bend down low. Vabbè, sarebbe l'Africa, la B, fratello, C, te, prendersi cura della gente, caring, D, dada, che non si capisce, dada, E sarebbe everyone, tutti quanti, poi F forever, insomma, è veramente una cosa da fricchettoni. Dovrebbe essere invece A come, cosa? Non lo so, A come albero, no, più difficile, dicevo, albero. Antroposofia magari. I is for incredible, J is for the jamming, K is for a kiss, L is for loving, M is for mommy, N is for nice, O is for oh my, P is for people time, Q is for quick, R is for ready, bend down low. Però ho sentito chiaramente che ha detto M is for mummy, cioè la mummia. Quindi anche lui sa di Berlusconi che si ma sta zitto. E poi tra l'altro questi riferimenti non sono solo paroline giamaicane, sono tutti riferimenti al Marley padre. Sono tutte cose che c'erano nelle canzoni del Marley padre. Certo, lui vive grazie a quello. Ma vabbè, ma sa, ognuno fa quello che può. S is for my sister. T is for today. U is for unity. V gives me variety. W is for the world. X is for my xylophone. Y is for you. Allora, qui abbiamo imparato l'alfabeto inglese, però avete sentito che dice Z is for Ziggy? Z è il modo di dire la Z in americano, mentre invece in inglese X dice is for my xylophone. Xylophone sarebbe xilofono. Xilofono. È l'unica xilofono. Parola con la X effettivamente che poteva dire, sennò cosa diceva? Abbiamo insegnato un sacco di cose con questa canzone, però, vedi? Insomma, cominciamo bene. Cominciamo bene. Bambino Alberto. Bambino Alberto, ma hai capito qualcosa di questo alfabeto giamaicano? Ma no, non ho capito niente, è tutto ecco, in inglese, vedi, cioè. Ma è in inglese, dai, B is for brother, cosa vuol dire? È brother, cosa vuol dire? Non lo sa, non lo sa. Vabbè, ma quest'idea almeno dell'abecedario, l'hai capita? No, cioè tutti i giorni scegliamo una lettera e dalla lettera scegliamo un oggetto, una cosa, un'idea. Poi c'è una canzone e che la spieghiamo tutto, in musica. Quindi, allora, cioè, quindi tu oggi, devi imparare, e oggi la parola è abbecedario. Ti piace la parola abbecedario? Cos'hai imparato dell'abbecedario? Cos'è l'abbecedario? Beh, ma l'abbecedario cos'è? È una specie, è un modo di dire, no? È come dire se mio nonno aveva le rotelle era un tram. Ma cosa stai dicendo? È una specie di... È una parola, un oggetto. Cos'è l'abbecedario? Ma abbecedario, le ruote, non le rotelle. Trammicano le rotelle. Non lo so. Con una B. Con due B, sono due B. Scusate, se non lo sapete voi due dovete insegnarlo a me. Ma in effetti, guarda, stiamo facendo però, la figura, scusa, abbiamo fatto tutta la lezione lunga. Allora, l'abbecedario, mai sentito nominare? Ma è possibile che non hai mai letto un libro che si intitola Pinocchio? Pinocchio, un libro famosissimo. È il pupazzo, no? È il, sì, è il burattino pupazzo, che sì, gli cresce il naso perché dice le bugie, no? C'è anche l'abbecedario nella storia di Pinocchio. Lui lo vende per avere i soldi. Anche nello sceneggiato c'era, se lui ha visto lo sceneggiato, ti ricordi? Sì. No, ecco, no. Che sbaglio, non era proprio così. Ma questa è una roba tristissima, non la voglio sentire. Sì. Così. No, mi viene la malinconia, non so neanche da dove mi arriva, ma. Tristissima. Dai, Manfredi. La musica di Carpi, questa, Carpi, Carpi nel senso. Cioè, Carpi diem, no? Cioè. Che cosa? Carpi diem. Ma no, Carpi diem. Carpi il compositore. Vabbè, ma tu comunque dalla BC devi partire. Vuoi diventare un bambino prodigio? Beh, bambino prodigio sì. Allora devi cominciare dalla BC, no? Comincia dalla BC. Comincia a studiare. Guarda tutti che... i bambini. Ma cosa, prodigio. Se uno è un prodigio inizia dalla Z, no? No, guarda, anche Michael Jackson, che è il bambino prodigio per antonomasia, ha cominciato dalla BC. ABC, eccolo, lo senti? Chi? Ma Michael Jackson. Perché questo è Michael Jackson. Ma sì, certo, quel Jackson 5. Ma questo è un bambino, dai. È Michael Jackson bambino. Michael Jackson bambino è un controsenso, perché Michael Jackson non è mai stato bambino. Eh no, come è nato mostro nel senso, come nel senso buono. Come mostro? Una mistura tra vecchio e bambino. È indefinibile, no? È nato così. Ma vabbè, in realtà era un bambino, è stato bambino tutta la vita. E qui dice ABC è facile come 1, 2, 3, è facile come Do, Re, Mi, capito? Senti. Senti, ma è tutto in inglese, no? Cioè, è vabbè, voi traducete, 1, 2, 3, ABC, dai, lo facciamo prima mettere una canzone italiana. Vabbè, insomma, ma non si può insegnare niente, sto niente qua. In sciopero. Ho capito, già. Senti, la... senti Jackson 5, c'era anche Tito nei Jackson 5. Tito Jackson. Non Tito. No. Tito Jackson. Ma Michael Jackson. Non era anche lui? È morto. Un programma di cacca e drago. A, B, C, C, A, B, C, A, B, C, E, E, B, B, C, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A,